dove ti bene, mi ci porti a pronto soccorso, cazzo. Mimmo mi esce il coso fuori, cazzo, la lingua. Ehi, va bene, io neanche sto uscendo più in bici, stavo facendo a casa, visto che non posso neanche andare da solo, babbo e mamma non ne hanno voglia, e quindi mi faccio da qui al cancello, andata e ritorno sempre, perché di solito l'allenamento che facevo era da qui fino all'ingresso di Sassari, invece l'ingresso di Sassari da qui alla fine della campagna. E quindi adesso non ne sto facendo più, sto andando in bici qui dentro la campagna sempre. L'unico problema è che quando vai in bici devi stare attenti che secondo il quale sta lavorando, se che devi metterli. È la stessa identica cosa di uscire in moto. Ci vogliono non due di occhio, ce ne vogliono quattro, due davanti e due dietro. Perché c'è sempre lo scemo che la macchina che se ne fotte, hai capito? Di chi c'è davanti. 58 kg, io te ne supero 20, Aspetta un attimino, ciao Claudio, salutoni. Pomponi, stavo chiamando, chi è che chiama Pomponi, avanti? Chi è che chiama Pomponi, avanti? Pomponi, stavo chiamando, prova tu a vedere, ma non mi sentono. Ehi, chi è? Buongiorno. Ehi, chi sei? Ma lui è Ginko. Leone primo, salutoni. Dopo tanto, mi hai ascoltato anche a te, Leone primo. D'accordo, Leone primo, mi hai ascoltato, ben entrato il 27. Anche a te. Avanti, Antonio Riserva. BMW 2001, di quella transistor o quella valvola c'hai? Vabbè, c'ero anche io il 2001, però la tua Fabio sistemami il relè, che c'ha, il mio c'ha il relè partito, devo farglielo cambiare, e quindi l'ho dato a lui per il momento, poi uno di questi giorni, quando è a posto lo provo, cambio cavo, ma che per il pennafuoco di G58 qua. Mi prezzo così, se serve qualcuno a valvole 200 euro va bene, se qualcuno gli serve, qualcuno magari che lo usa in campagna e cose del genere, va benissimo per 200 euro a voglia, 600 watt basta, non avanzano. Allora c'è su eBay 7G, BV 2001 MK4, amplificatore lineare, valvolare, da base CB 350 euro più 15 euro di spese. Sì, non penso che sia 15 euro di spese, a me la sono tu bella adesso lineare. C'ho le MK3, figurati. Almeno una decina di chili ci sono lì sotto al culo. Pesa più trasformatore di quello che c'è dentro. Ho 14 euro, l'ho fatta di spedizione, poi non lo so, alla fine 200 euro è regalato. Se è regalato c'è problema, 250 euro, penso che viene dentro 200 euro, vabbè, vabbè, deve essere l'ultimo modello, la MK4, perché io ho le MK3, BMW 2001, a valvole, naturalmente. Avanti Claudio, comunque stavo dicendo poco fa che tu pesi 58 kg e te ne vinco 20 e sono alto 1,77 circa. Ho capito. No, io non sono cose che a me non interessano. No. Chi mi vuole sentire mi sente così. Guarda, al massimo potrei attaccare un 747, ma non di più. Avanti Riccardo, ci sei? Sì, ci sono, volevo dire comunque a Claudio con il discorso della bici che stavo dicendo che forse era per dimagrire, a me dicono sempre che dovrei anche ingrassare, peso solo 35 kg. Beati voi, io se vado in bicicletta sì, cioè c'ho la bicicletta in garage che se sta vedendo. Uso quella, se no già c'è la macchina a cucinermi, ha voglia che ne faccio pedalate con la macchina a cucinare una vecchia, mi metto a fare mascherine. Scusate un attimo, arrivo subito. Ripeto Luca che dicendo chiudo e provo a fare la pipì 2 minuti, ma che pipì c'è la casa. Arrivo subito. Claudio, ci sei? Ma non sto prendendo il telefono a casa, che sto cercando di chiamare a Gianni, però non mi risponde, dice stiamo trasferendo la sua chiamata. Ok, no, allora non disturbarlo, sì, ce l'aveva accennato e ce ne eravamo dimenticati che stava facendo questo lavoro. No, non era niente di importante, era... gli devo chiedere una cosa, per non dirla in radio, vabbè, quando sarà libero mi farà sapere. Adesso provo a cercare giù a fare la pipì, arrivo subito. Ehi, va bene, riprendo io. C'era un sacco di persone, mi sono allontanato un minuto che stavo provando a fare una chiamata e sono scomparsi tutti, c'è stato un silenzio. Ho capito, sì, va bene, ma no? Non ho capito, scusa, che radio era, non ho capito l'unica cosa, ho capito tutto tranne che radio era. Eia, va bene, ma cos'è sempre un vintage? Peccato comunque, deve essere una bella radio, adesso me la cerco e ti do anche un parere. Eia, riprendo, se a quanto sto guardando ovvero è un baracchinetto, però sembra, se funziona bene può essere anche un baracchino minuscolo, che sembra come dire una casettina, invece va forte. Ho capito, se te lo posso chiedere adesso stai usando bene il summer camp. Ho visto che sei bene comunque, però è il baracchino, non è una stazione base. La conosco, quella linea è molto bella, però come ho detto, questo baracchinetto spinge, sta andando bene. Ciao Claudio, buona carica adesso quando la fai e ci sentiamo più tardi, dopo provo a fare una bassa a tuo padre e se prende, se no ci sentiamo per radio oppure quando prenderà il telefono che gli devo chiedere una cosa. Niente, come ho detto ti saluto, buona carica, avanti un altro per salutare a Claudio se c'è qualcun altro. Eia, ciao ciao. Attenzione 10, c'è qualcuno? Hola, canale 10, c'è qualcuno? Attenzione canale 10. Ciao Franco, vai, ciao Franco, ho ben sentito, e beh, come va? Ciao, vabbè, devi ascoltare. Ho acceso adesso, vedi, succede. No, c'era, un'ora fa c'era qualcuno, poi sono andato a mangiare, sono entrato adesso, non ho sentito a nessuno, finalmente sono andato a mangiare anche loro. Ecco, poi io sono un po' di giorni. Non accendo, sono sempre visto che si può uscire adesso. Con quale stai uscendo, col capo? Sì. Però sei più basso del solito, come mai? Sì, sono con 2 volte. Ah, per quello, eh. Bisogna essere basso. Basso. Ah, che riesco basso. Come ascolti di segnale? Segnale di 8, la radio 5. Tu sei 7 tendente all'8, però 5 non te lo do di radio, ti porti un po' di QRM. Un po' di QRM? Ah, sì, vabbè. Va bene. Ma poi non te l'hai veduto, dice lo stavi vendendo. Cappa. No, poi non l'ho messo da nessuna parte, dai, non l'ho messo. Se riesco a darlo così va bene, se no pazienza. Ma tu hai ne hai 2 di 60? Ah, di 70, sì. No, sì, di quelli ne ho 2. Uno lo uso da un'altra parte. Perché mi hai detto che forse lo stavi vendendo, o sbaglio? No, ho detto che lo davo solo con K. Uno aveva l'altro, forse lo prendevi, così mi hai detto. No, l'altro me lo tengo perché lo devo usare da altre parti. Ah, come non detto. Se l'altro con l'altro MC60, questo lo tengo per la Ciolinco, lo uso lì. Ricordo cosa hai, 44 o 68? Sì, 8. Prezzo si può dire qua in frequenza con 60 o che cosa? Guarda, lo suonando 400 lo suonando. Con 60? No, con 60 450. Vabbè, già un buon prezzo. Ti viene 50 euro WhatsApp più o meno. Sì, no, sta funzionando, però della radio funziona bene, che va bene. La radio è micidiale, è sempre quella che uso io. E poi tu c'hai il presidente, così? Sì, il presidente Rinco. Lì c'ho le amici 60 abitanti. Ah, su quello l'hai messo il 60? Sì. E l'alimentazione come gliela dai? Batterie, due filo da 1,5. Due da 1,5, ma come sono collegate? In serie o in parallelo? No, c'è un attacco regolare come tutte le altre cose, dai. E dentro le amici 60 c'è l'attacco per le batterie. Ah, tu stai sfruttando l'attacco diretto, cioè quello che c'è sotto? Ah, esatto. Il conteggio di sotto, le amici 60. E dentro c'è l'alloggio di due batterie. Già pronto. Ah, ok, no, pensavo facessi qualche modifichetta o qualcosa del genere. No. È già, ce l'ha già lui dalla casa. Ok, l'abbiamo già sentito, ma l'ha già fatto sentire quale frequenza il preside? Noi non lo so, l'ho usato, parecchie volte l'ho usato, sì. No, per curiosità, non me lo ricordo se l'ho sentito. Molto ci impiega a farlo funzionare o roba lunga? Sì, nel tempo di attaccare le luci sessioni ce l'ho. Beh, così vediamo un pochettino se spinge bene. Tu sei Fra? Sì, sono io. Com'è? No, ma sento un fischio, forse c'è un innesco, ho l'impressione, la notizia sta portando appresso qualche disturbo, forse perché c'è qualche propagazione. Capo, vedi a vedere com'è adesso. Allora. Ok, dai, non mi confondo. Com'è adesso? Vedi a vedere? No, questo passaggio già va bene. Ma può alzare il volume o no, non si può regolare? Meno di potenza, gli ho dato, ma la radio. Dovrebbe riuscire bene, adesso dovrebbe andare bene, dai. No, la radio già è chiara, più o meno il segnale dell'altro. Ma può alzare il volume della radio? Il volume della radio? Vede sulla radio, del microfono. No, le mie 60 non ho i per aumentare. No, dalla radio si può mancare il Mickey Gay. Il Mickey Gay perché basso è. Dovrebbe essere completo questo. Aspetta, ma magari mi avvicino io un po', perché così c'è la radio. No, ti ascolto bene, la radio è 5, però forse perché il segnale non è forte, non è fortissima come era, però è molto chiara. Quello che vedi, allora, vediamo un po'. Allora, così ho aumentato un po' anche la potenza della radio. Ho aumentato, vedi a vedere. Sei quasi Santiago 8, radio 5, però vabbè, forse non è forte il segnale, è quello che non riesco a valutartela bene. Il segnale non è forte, non è che c'ha tutti questi fatti nella radio. No, nel senso che magari uno che è vicino ti ascolta fortissimo di radio, qua non sei forte, per cui la radio è un po' più meno amplificata, diciamo, di quelle qua vicine. Io non lo so come mi stai ascoltando tu, però non lo so. Perché è usata, ho visto da Claudio e arriva benissimo, arriva. Poi non so da te cosa stai usando per ascoltarmi, e da tutte le parti arriva bene. Ah no, aspetta, non confondiamo. La radio è perfetta, forte, però non è molto molto amplificata rispetto ad altre radio. Ti ascolto benissimo, radio 5 pulita, non ha nessun difetto. Però considerando forse che il segnale è più basso di 9, magari non riesco a sentirti a piena modulazione. Ah, è chiappa, sì, è probabile. Che, vabbè, questa non è che abbia tanti fatti, dovrebbe avere più o meno un 7-8 watt, 10 watt massimo, non penso, non lo so perché non l'ho mai messo un rosmetro a controllarmelo, dai. No, già va bene, infatti facciamo un po', sicuramente se ci aggiungi qualcosa vicino, sicuramente la radio si amplifica. Scusami un attimino, dammi un attimo in bianco il telefono. Che era? Ci sono ancora fra? Chi è? No, Franco, sei dietro? Sì, io sono sempre qua. Ah, no, pensavo non avessi sentito, perché ti ho detto, ci sei fra. Aspetta che... tengo questa, mi sono partito. Ok, avanti. C'è qualche numero c'è? No, negativo, non c'è nessuno. Non c'è nessuno. C'è l'amplificazione leggermente molto alta qua che ascolto. Probabilmente se distorge un po'. Ma chi è che sta fischiando? Questo senti. No, c'è qualcuno che sta chiamando Roberto. No, non lo sento. Va bene, dai, un attimo che mi cambio la radio. Ok, a dopo. Avanti, chi chiama Roberto? Ti ascolto basso basso, però non ho capito chi sei. Hai detto Gavino? Quelle Ginko. Perché è così basso? Non lo so, comunque ciao Roberto. Ciao Riccardo, l'ascolto bassissimo, Santiago 5-6, ma radio quasi incomprensibile. L'altro giorno ti ascoltavo molto più forte, Emanuele. Ma hai cambiato parola? Sì, ha detto che sta usando un'altra radio. Già ho capito, però è basso basso, proprio in mezzo al QRM, meno male non c'è propagazione, sono guai, non l'ascolto. E tu mi ascolti bene invece, Emanuele. C'era anche Franco da Sorso, che però non ti ascoltava. Tu Riccardo l'ascolti molto forte, quando ti arrivo? Basso basso, l'unica cosa che riesco ad ascoltarlo è perché ha una radio buona, una radio chiara, è bassa però è chiara. E adesso come mi ascolti? Adesso sono molto più forte, Santiago 9. Capo. Riccardo, come mi ascolti adesso? Molto meglio adesso ti ascolto benissimo. Capo, dai, se voglio mi faccio ascoltare. Volevo uscire solo un pochettino più basso e basso. Sempre bella la radio. Capo, sono solo... Non è lineare, uso solo la radio. È bella comunque, molto chiara, poi inconfondibile la modulazione. Capo. L'altro, adesso non mi ricordo il nominativo, non riesco a ascoltarlo, l'altro che stavi parlando tu, vabbè. L'altro è Emanuele Ginko, però è in situazione precaria, Lima Delta, con un radiale sta uscendo di una manta. Con un radiale di una manta, figurati, si esce con la manta. Che rapporto mi dai a me invece, Franco? Tu sei un segnale di 8 e radio 5. Quindi tu sei un pochettino più forte di me, tu sei 9 abbondanti, picchi a 9 più 5. Capo, sì, adesso ho qualcosina in più, Mi sono accorto. Capo, bene bene. Riccardo, riprenditela. Riprendo, comunque, scusate, non ho salutato, saluto sta ruota, cioè siamo in pochi, comunque saluto a tutti. Capo, non ti dovresti sbagliare, siamo appena appena a 3 o 4. Non so, siamo in 3, cioè Roberto, tu e Emanuele. È l'ora dei migliori. Ha già mangiato Riccardo? Negativo, è ancora presto. Perché poco fa c'era la parte e poi sono rientrato e non c'era più nessuno. Perché ero solo con Claudio e quindi stavo parlando e mi sono assentato un attimo, stavo facendo altro, aspettando che tornasse qualcuno e poi mi sono allontanato e non ho sentito chi stava entrando. Cappa, Franco quando ti arriva Riccardo? Non ho controllato lo smitter, grazie, così ti do un rapporto di segnale. Cappa, tu sei 7 e radio 5. Contraccambio, lo stesso segnale, Santiago 7 radio 5, va bene, abbiamo lo stesso segnale da tutte e due le antenne. Capo, sì, va bene, va bene, basta potenza, va benissimo. L'antenna cosa c'avevi tu, la Game Master mi ha detto, fra... No, negativo, c'ho la Mantova Turbo. Quindi c'è un'ottima antenna, buona, buona. Capo, io ho preferito prendere la Mantova che... prendere e buttarmi su altre antenne che non conosco. Ho avuto sempre Mantova io, dalla Mantova 1 alla Mantova 5 e poi alla fine questa l'ho presa qualche annetto fa e mi sono buttato di nuovo sulla Mantova perché ormai conoscevo tutte le... erano buone e tutto, dai, e resistenti. Sì, è super collaudata. Io ho la 1, ho avuto la 5. Poi c'è la Turbo nuova, appena installata di un amico, l'ha smontata e me l'ha regalata, ce l'ho di scorta. Capo, è bella, bella la Turbo, io mi trovo bene perché l'unica cosa di difetto che c'ha è che si stacca la quel cavo, quel pezzo di coso controcircuitata, perché siccome queste antenne sono controcircuitate, si stacca quel pezzo di filo. No, la mia è stata modificata, rinforzata a voglia. Infatti, no, ma io quest'anno io sto aspettando le belle giornate per portarla giù. E rifarla, controllarla tutta e modificarla quel coso lì, in modo che sia di nuovo controcircuitato. Ah, ma già sta uscendo bene, non ti preoccupare. Dimmi una cosa, molto in alto ce l'hai? 6 metri. Ci metti di palo più l'antenna? 6 metri di palo più l'antenna. E quindi già è alto, ma non ho capito tu in che zona sei di Sorso? È la zona più bella che c'è. Questa è una battuta, qualunque sussico che ti chiedi, che la zona mia è la più bella di tutti. Appunto, è la più alta, immaginati tu la più alta. Ma tu sei verso segno di qui? Cappa. Cioè, va bene, poi di lì spari bene verso giù, verso il mare, quando c'è propagazione fai male a un po' di gente. Sì, diciamo che mi difendo un bene alla zona di verso Cattaneo di Gallura, mi difendo quella zona lì. E ce l'ho tutta libera, ce l'ho bella, proprio mi arrivano bene. No, io invece quella lì è una zona, dopo Castelsardo di lì perdo tanto, qualche volta sono riuscito a agganciare Badesi, ma è un po' negativa per me, mentre io sono molto aperto per Alghero, tutti gli Ittiri, tutti quei paesi vicini, quella zona Ittiri, Usini, Uri, Ossi, tutta quella zona lì ci arrivo a bomba io. Poi non parliamo tutta la zona sino alla Gallura, sino a Oschiri, Perfuga, di lì arrivo, non dico a bomba, a Buduzò, quei paesini lì riesco a farle. Capo, io quelli lì li faccio a bomba da qua, li faccio. E c'ho negativa Alghero io. Alghero, la zona lì per andare verso Olbia, quella zona lì c'ho negativo. Poi tutto il resto ce l'ho tutto positivo. Infatti, se sei in quella posizione lì sicuramente riesci a sparare bene. Lì se poi ti piace una bella direttiva puoi fare anche collegamenti a lunga distanza, se riesci a trovare quello che dall'altra parte c'ha la 60. Ma noi queste cose non le possiamo usare, purtroppo. Siamo cibillotti. E Franco, il tuo nominativo com'è che non mi ricordo? Niente, non è un nominativo, c'ho Franco e basta, Franco la sorsa. Ah, infatti così è meglio. A me questi nominativi molte volte quando ci sono i doppioni, se no va bene, chiamo quasi tutti, non che non ci siano tipo Gianni Doppio Rum e Gianni l'altro, come si chiama? Gianni D'Amuro su Capri, perché normalmente li chiamo tutti per nome. È più facile, e chi ci ha nominato molti entrano direttamente con nominativo, però preferisco chiamare per nome. Sì, non ho mai pensato, la verità, tanti anni fa, io parlo di tanti anni fa, quando facevo i DX, cose così, che allora c'avevo anche la casella postale, avevamo tutto, c'avevamo, diciamo che entravo sia in banda sia in AM, con la propagazione entravo come Attila, entravo. E poi l'ho lasciato perdere quello e non l'ho più usato. No, ma neanche io c'ho il nominativo, a me mi dicono Quadrato perché sono una zona Quadrato, se no mi chiamano tutti Roberto. Tu magari perché moduli da quella zona lì, ti hanno messo, vedendo la gente che non è un nominativo, ti hanno messo Roberto Quadrato, è ovvio. No, io uscivo come Attila, uscivo, poi c'era anche un altro come Attila sempre qua in Sardegna, adesso non mi ricordo se di dove era quello lì, forse era Chiaramun, no, sto sbagliando io, non mi ricordo dove era. Poi quello lì ha mollato tutto, sono rimasto io solo. Mi pare che ce n'era un altro di Attila. Io adesso qualcuno nuovo li dobbiamo battezzare, stavo pensando, lo sai come? Covid-19, che non c'era nessuno. Quello è da dimenticare, non da ricordare. Vabbè, ma visto che uno mai è entrato in quel periodo lì, lo chiamiamo Covid-20, perché 19 è già scaduto. E questo mi sa che è girato tutto a Riccardo? A Riccardo ha preso l'eredità dal padre, il padre era Sergio Alfa 21 e lui si chiama Riccardo Alfa 21. Capo, non me lo ricordo io, di Sergio Alfa 21 non me lo ricordo, ma probabile che ha modulato molto prima di me. No, neanche io, vabbè, io sono giovane, frequenza una quindicina d'anni, non di più, poi sono mancato, poi sono ritornato. Da ragazzino ascoltavo un pochettino, però facevo altre cose. Vai Erika, di Apple Mike. Ok, vabbè, riprendo io perché Ricky è in bassa. Ciao Franco, ben ascoltato. Vabbè, stiamo parlando di modulazioni intorno al 1978-79, dai, ero ragazzino, proprio 14 anni, quindi puoi immaginare. Infatti io ho cominciato nell'87, ho cominciato 86-87, ho cominciato e poi ho mollato nel 2000 e sono stato anni che non avevo più ripreso. E diciamo 4-5 anni fa ho ripreso tutto e me ne sono ricomprato, anzi mi avevo venduto tutto e poi mi sono ricomprato tutto quello che avevo prima. Lo so, io parlo anche per me, facevamo proprio così, si smetteva, si rivendeva tutto, si riacquistava, sono quelle passioni che vanno e vengono e poi insomma comunque non ti lasciano mai. Bello Roberto. No, io invece, anche se non stavo entrando da qualche anno, ma riaccendevo ogni tanto, non ho venduto niente, rimango tutto qua invariato, anzi qualcosa di nuovo ogni tanto la prendo quando c'è qualcosa che mi piace, ma non mi piace, se c'è una passione mi tengo tutto, ma di qualunque tipo di passione io ne ho tantissima, anche se magari poi non la coltivi più come una volta, però mi tengo tutto, non sono un tipo che mi piace vendere, raramente faccio qualche scambio, vendere proprio che mi ricordi di radio qua niente, me le hanno chieste tante cose, ma proprio pregato tanto, alla fine a qualcuno per disperazione poi ci siamo arrangiati, abbiamo fatto degli scambi, dai. Però non sono un tipo che quando mi compro una cosa è molto meditata l'acquisto, molto meditato, per cui è una cosa che ci tengo e me la tengo. Ho capito, vabbè, ma succedeva allora, quando eravamo ragazzi anche a noi vendere, scambiare, fare giusto per avere delle novità oppure per stare aggiornati con la prima volo succedeva, quindi capisco Franco. Avanti. Vabbè, allora eravamo ragazzi, quando facevamo queste cose eravamo molto ragazzi e come ti dici non sempre di fuma e le abbiamo fatte tutti con lui prima. Adesso io guarda, una sera stavo pulendo in un magazzinetto e ho trovato un portatile della 27 e così, poi del portatile ho visto in un'altra cassetta un baracchino piccolo, piccolo, piccolo, di quelli sottili della Intec. Adesso l'ho provato, l'alimentatore ce l'avevo, adesso l'ho provato, l'ho provato, ha funzionato, ho preso un antennino di macchina, l'ho piazzato, l'ho guardato, ho visto che c'era gente, poi dal giorno ho comprato di nuovo tutto e mi sono rimasto. Allora infatti, basta, quando si è appassionato basta un attimo che si riaccende la passione e si va avanti, questo mantiene un po' vivo nel tempo questo hobby. Avanti Roberto. Sono belle passioni, sane soprattutto, non è la stessa cosa andartene ai giochi, come si chiama, quei giochi macchinette o andartene al bar buttato tutto il giorno a giocare a carte o cose varie, almeno qua non fai male a nessuno, ti fa la tua chiacchierata ed è interessante, conosci magari ogni tanto qualche persona nuova, qualche argomento che ti può anche arricchire come cultura e non fa mai male. Vedi, quello anche per me è una malattia, perché io non posso lavorare e poi buttare via tutti i miei soldi in un attimo, per questa colpa di queste macchinette. Cioè, io dico colpa della macchinetta, ma non è colpa della macchinetta, è colpa della persona che ci va a giocare. Io guarda, non prendo neanche un gratta e vinci, ma non perché non lo prendo perché per non buttare via i soldi, ma lo prendo perché non voglio prendermi nessun vizio di queste cose qua, perché i soldi a lavorare ci vogliono tanto, a entrare ci vogliono tanto, a uscire non ci vuole niente. Avanti Alfa 21. Ma lo passato, poi conosce bene le debolezze dei suoi cittadini, quindi ne approfitta anche l'altro giorno stavo commentando che in sovraimpressione alle notizie del telegiornale e anche di altre trasmissioni, nonostante la tragedia che stiamo subendo, c'è la restrazione dei numeri dell'otto, quindi invitando la gente a giocare e a continuare a mandare avanti, insomma, un po' in maniera anche subdola questa intenzione che le persone poi hanno nello scommettere, nel giocare, perché lo sapete, chiaramente vuole incassare, come lo fa col fumo o con tante altre cose, con gli alcolici, eccetera. Scusate, niente, dai, io vi devo lasciare, grazie della piccole chiacchiere e ci sentiamo, che sono chiamando a cena. Ci sentiamo tra le prossimine, a domani. Ciao Roberto, ciao Fraventuro e a chi ci ha ascolto. Avanti Roberto, e fai girare. Correti per me. Ciao Franco, ben sentito, buon tutto, buona carica se devi farla e buona giornata eventualmente per domani. Ciao ciao, avanti Sergio. Ok, dai. Ben ascoltato, fra la prossima autunno e ci sentiamo. Avanti Roberto, se c'è stato un altro, Gianni non ci ha più fatto sentire, è sparito. Ma Gianni Muros. Gianni del tuo rum. Signor del tuo rum, Ritardino, finite le telefonate. È ricercato, è diventato una persona molto ricercata. Ieri notte c'era uno, non so se te l'ha detto, che chiamava sempre lontananza, Ritardino. Ma lo so che c'è stato questo qua, no? Pensavamo che fosse Gianni doppio rumo, invece mi ha detto che non era lui, pensavamo fosse col portatile. Ma la Fidelio gli ha fregato anche a me, perché l'avevo sentito anch'io quello che chiamavo in sottofondo. Ed ero convintissimo che era Gianni da un altro apparato pure in macchina, invece non era così. No, ha confermato che era fuori casa, in compagnia, però non aveva nessun apparato. Ma tu non lo senti? Io ho sentito sto affondo proprio, a volte è anche un po' coperto da altre sovramodulazioni. No, qua era Santiago 7, piccolina come modulazione, molto bassa, non so se perché era a basso di segnale o perché stesse facendo la voce lui, il bassettino. Sembrava qualcuno che scherzasse, perché all'inizio mi sembrava, Eugenio, mi ha detto, ma non può essere lui perché è già rientrato a casa, poi era molto più forte, Eugenio sembrava più forte anche se ultimamente era col furgone, poi ho detto, non riuscivo a capire, ma che non era, perché poi mi è venuto anche il dubbio che non sia qualcuno di quegli spagnoli da lontano che magari ascoltava il QSO e ripeteva il nome di Riccardo. Ma forse quello mi sembra un po' strano, anche se oggi hai visto, stavano arrivando a bomba, sembravano di aver lasciato casa, era una cosa incredibile, se dopo la propagazione è proprio, ci permette di ascoltarli come se fossero a due passi, incredibile. Oggi era una bomboletta, poi è durata per tanto tempo, poi quello c'era uno, aveva una radio spaventosa. Ma quello commentava l'altro amico che stava usando amplificatori, stava usando il microfono, quindi faceva delle cose strane, con un sottofondo a volte amplificato con eco, ma era fortissimo, aveva una radio strepitosa, come arrivano fortissimi, una cosa incredibile, sembra che tutti abbiano degli apparati super in portoghesi. Ormai con tutte le attrezzature che ci sono, veramente vedi con i giocattolini tutti escono con cose un pochettino più evolute, con microfoni da battaglia per cui si fanno sentire. Ma c'è gente, io ho visto con apparati, ho sentito gente, ma apparati amatoriali di grandissimo livello, niente che mi è capitato di ascoltare gente con lì come quelli grossi, no? Non dico 440, che ormai 440 e 140 non è una novità, ma sentire dell'ICOM del 7008, 7007, ho sentito della gente che si comprano questi apparati da paura. Ah, mi stava dicendo un radioamatore che poi è appassionato anche di apparati CD, che all'epoca usciva qualche anno fa, adesso non più, con il famoso Sonnerkamp o Yaesu FT101, che diceva aveva un sacco di watt in uscita e dice che arrivava a bomba, una cosa impressionante, poi aveva il microfono amplificato, quindi dice che era incredibile, arrivava da tutte le parti, forte, forte, forte. Non lo so, però ho scoperto la storia della sobbarca. Cioè? Allora io pensavo, come credo che tutti pensino la stessa cosa, che la sobbarca fosse stata rilevata dalla IAESO e poi dopo qualche anno si chiamasse IAESO. Non è assolutamente così. So che c'erano studi in un'unica azienda? No, la sobbarca non esiste ancora, tra parentesi. Allora, sobbarca è un nome del distributore svizzero della IAESO. Negli anni 80, quando c'era il contingentamento della roba da Made in Japan, non si potevano prendere le cose giapponesi, c'erano dei dazi troppo alti e non conveniva, per cui c'è stato un blocco, non so se ti ricordi, come le macchine giapponesi costavano una follia, per cui nessuno, già erano brutte e nessuno le comprava. Allora, per aggirare l'ostacolo, questo, come si chiama, la IAESO, perché la IAESO esiste molto prima della Sommercamp, non viceversa, ha preso, si è messo in contatto con questo personaggio che si chiama Sommercamp, uno svizzero, gli dava gli apparati senza il frontalino. Lui metteva il frontalino marchiati Sommercamp, che era il nome del distributore della IAESU per l'Europa svizzero, e lui a quel punto li distribuiva in tutta Europa marchiati Sommercamp, per cui erano in Europa, come che venissero prodotti in Europa. E se tu controlli, infatti nei Sommercamp, quelli vecchi c'è, nello Svizzera c'è il marchio IAESU, e adesso la IAESU, quelli c'è ancora, ma è marchiata Sommercamp, i prodotti IAESU in Svizzera sono marchiati Sommercamp. Ah ecco, adesso si è spiegato un pochettino questo passaggio. È comunque incredibile, perché tu alla fine c'è stato un passaggio quasi soltanto di nome, di comunicazione, perché tu anche gli svizzeri, io ero contentissimo che la Sommercamp fosse svizzera inizialmente, tanto loro che gli apparati apparivano per tutti, ben curati, con un'elettronica particolare, e invece erano giapponesi, hanno fatto soltanto un passaggio di marketing. Sì, è così la storia, perché mi sono informato, ho fatto delle ricerche su internet e ci ha proprio spiegato, non so se si chiama Philip Sommercamp questo qua. Anche io mi immaginavo che la Sommercamp fosse un marchio come si chiama storico, dopodiché a un certo punto la IAESO l'ha acquistato, come succede con tanti marchi, tipo la Fiat con la Lancia, con l'Alfa Romeo, è stato assorbito, e a quel punto, come la Trio con la Kenwood, e a quel punto si fosse formato e unificato l'unico marchio, invece non è assolutamente così. Comunque, Sommercamp, in Svizzera si continua a chiamare Sommercamp, nelle altre parti del mondo si chiama IAESU, o IESU, che sarebbe più giusto. E che poi comunque mantenevano alti anche i costi, non è che fossero gli apparati, quindi erano costosi anche all'epoca, i Sommercamp non erano tutti che potevano permetterselo. Ma adesso come adesso sono sempre costosi, sono apparecchi, il problema è che la domanda è limitata, per cui loro non possono fare grandi produzioni, tipo come c'è stato il boom dei televisori LCD, che prima 10 anni fa costavano una follia, adesso li trovi a 150 euro, per quello che prima magari costava 1200 euro. Lo stesso televisore è meglio pure, più aggiornato. La tecnologia, sono pochi marchi che costruiscono, che fanno quei tipi di apparati radioamatoriali, per cui loro si tengono molto alti come prezzi, perché sono, diciamo, sono delle case costruttrici, non dico artigianali, ma quasi, diciamo, non hanno grossi numeri produttivi. Capito. Poi magari anche le richieste di mercato non sono cambiate, non sono più le stesse, perché molte aziende credo che abbiano cambiato anche l'indirizzo produttivo, magari si sono dati ad altre tecnologie, a qualcos'altro, per sostenere il costo, per continuare a produrre, credo, no? No, ma adesso sta morendo, adesso l'apparato vero e proprio, come ce lo ricordiamo noi, come ce l'abbiamo noi, piano piano sta morendo, adesso c'è tutto col computer, per cui quello che prima c'aveva una scatola di 20x20 o 30x30 o anche più, ce l'ha dentro un computerino, c'è il software dentro e ti fa tutto quello che fa un ricevitore dell'ultima generazione, con il vantaggio di aggiornarlo continuamente, per cui puoi sempre evolversi la situazione, c'è sempre un apparecchio con l'ultimo grido, con costi molto ma molto più limitati e con prestazioni anche per certi versi meglio, magari a qualcuno può anche non piacere, perché è sempre più bello toccare i tastini, girare le manopole eccetera, e io sono di quelli, però questi ricevitori o questi trasmettitori interfacciati col computer sono eccellenti come prestazioni e tipo di funzionalità, nel senso cioè di utilizzo per il, come si chiama, per migliorare la ricezione o la trasmissione? Oh, su quello sì, magari sono d'accordo, però sono più fatti per il consumo che magari che per le esigenze, perché questi comunque richiamano anche un'estetica che era anche una, era bello vederli e comunque maneggiarli e utilizzarli in un certo modo, cose che adesso con gli altri apparati non succede, quindi la passione secondo me è mantenuta anche, anche ha aiutato anche il fattore estetico a mantenerla nel tempo, credo. Sì, assolutamente, no, io poi forse perché sono amante di tutto quello che sarebbe d'epoca, il vintage, quello che c'è una storia dietro. Se prendere invece un esempio, la chiavettina, quella che mi avevi prestato tu, e metterla su un computer ti dà lo stesso fascino di avere un ricevitore che giri la manopola, che te lo cerchi, che magari non è neanche avvicinabile come prestazioni o come funzioni, però è più bellino sentirti quel segnalino disturbato, mentre di là col computer c'hai tutti i filtri possibili e immaginabili e ti puoi pulire il segnale, equalizzarlo, tirarti fuori solo la modulazione, eliminare tutto il fruscio con quei sistemi digitali. Non è la stessa cosa, però il futuro sarà quello, come i cellulari. Prima avevamo il telefono a disco e tutti sentivamo quel rumorino, tutto un classico. Adesso lo fai vedere un ragazzino, l'ho visto in un programma alla televisione, questi ragazzini li hanno telefonati alle vostre famiglie, erano in un collegio, un programma che c'era, vediamo la possibilità, erano un mese in collegio, come premio per il comportamento, la possibilità di telefonare ai vostri genitori, e c'era un telefono a disco, perché questo era ambientato negli anni 60, riproponevano un collegio degli anni 60, non so se l'ho visto quel programma, con tutte le cose degli anni 60, poi l'hanno fatto sino agli anni 80, hanno fatto 60, 70 e 80, con le regole, con il vestiario, eccetera, eccetera, e l'hanno fatto un telefono nella segreteria di questi a disco. Nessun ragazzino, erano ragazzini dai 14, 16 anni, anche 17, qualcuno si è messo a piangere perché dice hanno avuto la possibilità di telefonare ai genitori dopo tanto tempo, e dice come si fa, come si fa, non sapevano da che parte iniziale. E io sono sicuro che magari Riccardino è un ragazzino molto intelligente, magari se l'ha visto su internet magari ci riesce, ma molti ragazzi di oggi non sanno neanche da che parte si utilizza. Ah, quello sì, sicuramente, ma poi anche il fatto di costruire una cosa con una durata breve, tutti appunto tutto sommato essendo curati anche esteticamente erano nati per progettati e costruiti per durare nel tempo, quindi questo era già una garanzia che avevo un apparato che potevo durare nel tempo, non sostituire il giorno dopo, la settimana dopo, per averne un altro, quindi disinnamorarsi e dimenticarsi anche di quello che avevi prima. Quindi anche perché la nostra vita è fatta anche di ricordi, di attenzioni, avere tutta una serie di cose che puoi prendersene cura e usarle nel tempo, quindi c'è anche il lato affettivo, poi paradossalmente anche se sono cose che chiaramente sono dei buoni oggetti, però sai, poi dopo col tempo diventa anche una questione di affetto. Assolutamente d'accordo. Io ti ripeto, forse c'è pure troppo di passione, anche te vedo che sei appassionato di tante cose, però tutto quello che faccio lo faccio, cerco di farlo nel migliore dei modi, con passione, con attenzione, e soprattutto apprezzo le cose che hanno uno studio, una storia da raccontare, perché quando tu vedi un orologio meccanico fatto 100 anni fa, tutto lo guardi, io me li apro, me li guardo e dico cavolo, ma guarda un po', guarda come hanno costruito questo, ma di qualunque cosa, di qualunque apparecchio, può essere anche un ventilatore, un trapano, cose parliamo vecchie, e poi te li guardi male con questi nuovi, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, quelli invece vedevi come costruivano certe cose ai tempi passati e tu rimani a bocca aperta, adesso tutto praticumine, cose che come si rompono ce le butti via, mentre prima si riparava molto di più. Adesso considera che, come dicevi tu, il fatto che noi abbiamo distrutto di questa apparecchiatura, c'è gente che ha dedicato una vita, ci ha studiato, quindi ha creato delle cose da niente per poterle usare, utilizzare per fini svariati, per il divertimento, per le necessità. Tu immagini che noi di corpo catapultato in un'isola deserta, anche con dei materiali base, io non sarei in grado di costruire niente. Già lo so, guarda, io ho la radio a galena, non so se la conosci, me l'ha dato un amico, però io ho tutta la possibilità di costruirlo, perché se ti ricordi di scuola radioelettrica che ha fatto un sacco ha creato tanti elettrotecnici, diciamo la maggior parte di quelli di vecchio stampo hanno imparato dalla scuola radioelettrica, quella è per corrispondenza. Io ho addirittura l'edizione del 57, una primissima edizione, sono la prima, una delle primissime, ancora dattilo scritta, tutti i compendi di elettronica, matematica, fisica, chimica, perché lì c'erano tutti gli argomenti, e sono centinaia e centinaia di pagine, tutte dattilo scritte, e lì poi c'erano i progetti per dire progettare la radio a galena, e tu vedi la radio a galena è l'esempio di radio più semplice che possa esistere, c'è un quarzo, un minerale di galena all'interno di un'ampolla, che questo qua crea una frequenza, diciamo un'eccitazione, una frequenza campione, si fanno delle bobine, una bobina te la accordi sulla frequenza che vuoi ascoltare, è talmente basso questo segnale, devi ascoltarlo solo con le cuffie, c'è una specie di condensatore variabile, una cosa del genere, perché ci sono anche fissi senza essere vivo, poi variabile, ma tu devi il piacere quando uno fa una cosa del genere e dici ho costruito una radiolina per ascoltare le bande, le onde corte, le onde cortissime, eccetera eccetera. Ecco, lo faceva una ragazza, dice che cos'è questo Prezzuria? Infatti me lo ricordo, che la prima radio che avevo fatto era quella galena, e mi aveva lasciato stupito il fatto di poter ascoltare con una radio senza che non funzionasse né a batteria né a corrente, era incredibile, usavi le cuffie, catturavi le onde radio, era una cosa impressionante, ti ricordo che erano i primi rudimenti che mi aveva insegnato signor Dino, era un tecnico competente comunque, che usciva anche in radio, è nato come Beta Word, e che negli anni buoni degli anni 70 era uno che insomma di elettronica ne masticava parecchio. Lo ricordi anche quelli. Roberto, un altro ti saluto perché mi sa che dobbiamo andare in carica e eventualmente ci sentiamo presto, e mi ha fatto piacere questo corso, alla prossima Roberto. A Radio Galera, buonasera. Eia, vabbè dai, Sergio, quando vuoi entra, è sempre un piacere, vabbè già siamo vicini, avvicinati quando vuoi, le conversazioni si possono prolungare anche in verticale, come dice qualcuno. E saluta Riccardino, dai, buona cena, buon tutto, e ci sentiamo in altre occasioni. Avanti di nuovo Fabio, avanti a te il mic. Caffa, per salutare Sergio, dai, ci sentiamo anche dopo, siete vicini alla stazione, che Riccardino sicuramente rientrerà. Ciao Fabio, sono rimasto per sentire l'ultimo tuo passaggio perché ero un po' di tempo che non ti sentivo, ben ascoltato, dai, mi fa piacere sentirti ogni tanto. Sì, probabilmente ci sentiamo più tardi, dai, riprendete tranquillamente. Avanti il break adesso. Ti ho rilasciato già, no? Sì. No, non si è sentito nulla. Ciao, buonasera a tutti, dai, già vedo più rumore. Ciao Roberto, chi era quello che parlava con te? Non ho capito. Sergio, il padre di Riccardino. Ah, ecco perché c'è la voce. Sembrava la radio, un qualcosa facsimile, familiare. Comunque, buonasera a te, Sergio. Ciao Torino, ho seguito anche a Gianni, buona entrata. Vi lascio il vostro spazio per questa l'ora dei migliori, ci sentiamo dopo. Ok, mi faccio il piacere. Ok. Vai Fabio. Cappa, oggi Tonio lo sento basso basso, mamma mia non lo sento. Comunque salutoni a tutti, sono entrato senza break, perciò faccio break, avanti, sto parlando io. E chi devo salutare? Gianni Doppio Room, ben sentito, Roberto, ben sentito alla finestra di casa, saluto anche Tonino. Roberto, nel resoconto ce n'era qualcuno? No, penso io, ci sono solo anche io, non è che sia entrato da molto, c'ero qualche ora fa, un attimino, poi mi sono spostato ed era, c'era anche Coso, Riccardino, Gianni Doppio Room e poi qualche donato, con Luca. Poi sono rientrato, non c'era nessuno, c'era un attimino Franco da sorso e facciamo riprendere prima Gianni Doppio Room e poi a Tonino El Cavazzacchi. Io saluto i nuovi entrati, ciao Fabio, ciao Tonino, vi sentite tutti e due, avanti Tonino, riprendi. Ciao, saluto il Cicolecchi, che non ci capisco niente, sono le finali di Sergio, era entrato, ho fatto la voce diciamo, familiare, poi mi ha fatto un altro pezzo che era in fase di cattivo, insomma. Bene, Veda, Gianni, dopo ti faccio una bassa e ti devo raccontare qualcosa di... insomma, così. E anche adesso, non più fare. Ok, allora, con X da parte mia, ci sentiamo dopo. sei io. Se vai tu Fabio. Da Fantorino, buon Corre X, a dopo allora. Dai, ti rilancio. No, se stavo chiamando la Vicenza. Ciao Fabio, sei più o più, ma ti sento lo stesso. Capa, grazie Tony. Se ci sentiamo è per merito tuo, non certo per merito mio. Ci sentiamo dopo allora, dai, buon Corre X. Ok, grazie, ciao. E niente, Robè, qui la gente tocca le mani. Via, diciamo l'ora dei coso, dei nottambuli questa. L'altra volta parlando, mi pare c'era anche tu, mi ha offerto all'1:15. E capa, ci siamo implicati nei discorsi radiofonici, abbiamo finito tardi sì, è vero. Anche se era di sabato, però poi abbiamo guardato, se no siamo a ore, molte volte abbiamo degli argomenti abbastanza condivisibili, diciamo, di piacevoli, per cui quando iniziamo a parlare, tante volte capita che facciamo anche monopolizziamo anche troppo il canale, qualcuno ascolta, gli fa piacere, altri scappano e non gliene frega niente. Infatti, vabbè, capita, dai, le passioni si intrecciano, quando una passione se ne aggiunge un'altra, e poi in radio, capita il discorso, ti sposti un pochino, ma se te ne fai un dottore, alla fine succede. Pensavo al lavoretto che stai facendo, cavolo, io due cose le ho fatte in maniera diversa, però ce ne stai mettendo, Allora, tante cose si potranno fare in maniera diversa, però tu devi capire, il principio di quella roba lì è fatto perché devo rispettare certe come si chiama, caratteristiche, perché sennò non l'avrei fatto assolutamente con quelle disposizioni, perché devo rispettare la destinazione d'uso di quel tipo di veicolo, sennò avrei fatto completamente diverso con altre filosofie, eccetera, però devo rispettare. La cosa predominante era il bagno e la doccia, ho detto, quelli devo averli comodi, con doccia separata, e poi un letto diciamo abbastanza confortevole a due posti, così se vuoi andare in compagnia puoi andare, perché se vuoi andare con più gente utilizzo l'altro, però questo c'ha di buono, una bella doccia chiusa, separata, eccetera. No, su quello non ci piove. Vabbè, bene, non ci piove da nessuna parte, perché vorrebbe dire infiltrato, che è battuta di M. No, mi sono immaginato tutto un layout diverso, così, a progetto mio, perché poi ci ho pensato, ripensato alla cosa dei telescopici che hai messo, capito? Eppure mi sono immaginato uno scatolato diverso per il letto, con addirittura il rialzo per il tavolo, con doppia cerniera, una cosa che dovrei farti uno schizzo, ma così, perché ormai tu hai fatto, finito. Allora, quello con la cerniera, come progetto iniziale era così, poi alla fine l'ho abbandonato per la flessibilità, si chiama, io diciamo, forse sono abituato a parlare così perché ho studiato ai geometri e ci insegnavano la flessibilità delle cose, si chiama, o l'ottimizzazione delle cose, per dire, da una stessa cosa farla, utilizzarla per altre cose, tipo pareti amovibili, pareti nascoste, cose del genere. Se tu lo fai ribaltabile con quella cosa lì, devi togliere, per dire, se lo chiudi all'interno, quel discorso lì, una volta che pieghi la cerniera, c'è il materasso interno ed è un po' scomodo, perché devi togliere il materasso, se no ti schiaccia il materasso quando lo pieghi, e non hai la funzionalità e la flessibilità di smontarlo e farti il tavolino. Sicuramente non è bello fare con questa roba telescopica, però è abbastanza più semplice da piazzare, perché la ribaltina tu ribalti e quando ribalti c'è il materasso dietro, e cosa fai? Poi la parte superiore è la ribaltina, dove ti ho fatto vedere quella parete lì, perché non c'è nessun ostacolo, però se c'hai il coso, i materassi, nel vittorio prima i materassi, ribaltarlo e poi ci metti sopra il materasso. Quando devi utilizzarlo come tavolo, cosa fai? Devi fare un innetto delle ceniere smontabili, come mettere i piedi, eccetera. Per quello ho optato quella soluzione, quella con i telescopici. Dovrei farlo lo schema. Dovrei farlo perché in realtà, secondo il mio schema, che per carità bisognerebbe anche farlo e farne un brutto tipo e provarlo a vedere com'è, ma secondo la mia fantasia in realtà praticamente ti puoi immaginare di avere il piano, diciamo quello a parete, quello lì, e sotto ci metti una sorta di scatolato a cerniere, tale per cui se lo tieni aderente all'altro piano, il letto raddoppia, diciamo, di larghezza. Se invece lo sposti più avanti e il materasso fa in modo che ti alzi a spalliera nella parte che normalmente dovrebbe stare sul letto attaccato alla parete, e a seduta nella parte che dovrebbe essere quella, diciamo, telescopica, si fa il divano e davanti c'è il tavolo. Capito? Io me lo sono sognato così. Che cazzo è? Ci ho pensato un po', Oh vabbè, se ti capita me lo fai vedere, mi fa uno schermino, non ti sto seguendo completamente, perché quello ribaltabile, la ribaltina che stai dicendo tu è una cosa bellissima, però bellissima per certi versi e negativa per altri, perché c'è la funzionalità che li puoi mettere addirittura nella parete interna, quella che io faccio estraibile, li metti già attaccato il materasso nella parete all'interno, così poi lo ribalti, li fai dei piedi pieghevoli, in modo che come ribalti tipo il tavolino a picnic, li pieghi i piedi e arriva già direttamente in terra. Quella è la soluzione che volevo fare io, però poi ho detto, e invece quando devo mangiare cosa faccio? Se ho già il materasso, devo togliere il materasso, piegarlo e mettere due materassi, e poi il tavolino dove il tavolo lo metto? Quello è il dubbio, perché ho fatto in modo che se io lo posso utilizzare come letto o come divano, divano letto nel senso che ti puoi sedere e il divano si trasforma cioè dalla parte allungabile, la piazza in mezzo, diciamo la mezza piazza, quella lì si estrae e diventa un tavolo utilizzando i piedi telescopici che c'erano per allungarlo. Sì, sì, guarda, sto cercando di fare uno schema più stupido possibile per farti capire come la cosa. No, questo l'ho sbagliato, allora lo riprendo da capo. Dunque, mettiamo che sia questa la parete. Allora, ci facciamo il piano, quello che diciamo rimane fisso, e questo rimane fisso. Sopra il piano fisso c'è quest'altro piano che sotto ha due alette che sono legate lateralmente con una cerniera. Vediamo, perciò praticamente tu rimani seduto su due fogli di legno. Fa l'ispettore, però il piano rimane doppio perché ha delle cerniere laterali e poi quando apri, aspetta che adesso ti facciamo il piano, ok, per farti capire com'è la cosa, queste rimangono così, laterali, ok, ti sto raccontando il disegno con le cerniere di lato in maniera tale che poi risulti uno pieno doppio. Aspetta che ti mando la foto, Ok. Ok, vediamo un pochino, se il telefono mi riconosce, perché ultimamente il telefono non mi vuole più riconoscere, ma penso che sia colpa mia, non colpa sua. Eccolo qua, è legato, miau. Tac. E tac. Guarda un pochino. Aspetta, non riesco a capire quello che vuoi farmi capire. E certo, hai visto che ho disegnato tra l'altro col block note sulla gamba. Allora, praticamente quello di su non c'entra niente, ce lo farò anche sopra. Comunque per indicare che lì sopra la panca, diciamo, ci metti questo piano doppio. Il piano doppio è fatto nella parte superiore, diciamo, da un piano intero, e invece di lato da due spondine che sono pari alla metà di quel piano, che si richiudono sotto, capito? Ma questa roba tu è la parete, ma io lo farei in modo che la parete rimanga chiusa. La parete rimane chiusa, questo qui è un piano di legno che tieni nella seduta col cuscino sopra, cuscino, col materasso che si piega, perché ti farei giustamente una cucitura all'intera metà materasso, per riuscire a piegarlo poi per diventare un divano, giusto? Sì, materassi ce ne vorranno due, perché tipo quelli che usi nel camper quando devi fare un letto matrimoniale, quando lo usi seduto ne hai metà. Quando lo vuoi intero togli lo schienale e diventa duro. Esatto, addirittura nell'altro camper che ho nel Ducato, il letto, cioè la mansarda, si poteva spingere e compattare, tanto per facilitare, diciamo, il passaggio dalla cabina guida alla cellula. e il materasso originale praticamente prevede anche la possibilità di essere piegato, capito? Che più o meno, il disegno non è che sia molto, non ho capito esattamente, sarebbe più facile magari vederlo, dice mi prendi questo, lo giri così tipo con le carte, prendi due pezzi di cartoncino, dice mi questo lo trasformo. Esatto, è più facile, vabbè, lo girati un attimo, anche una porcheria, in effetti più da guardo almeno si assomiglia a quello che stavo pensando. No, vabbè, ma sei presente, io ho già preparato tutto il discorso estraibile, ma secondo come se c'è qualche soluzione più comoda, io l'ho fatto più che altro per comodità, quelli estraibili in modo che c'è anche i piedi, li tiri fuori e li utilizzi come coso, come piedi del tavolo, oltre che gli allunghi del letto. Sì, se fai con le mani misure, questo doppio foglio, diciamo, potrebbe addirittura coincidere con la seduta, cioè avere un laterale praticamente che coincide col verticale dove appoggi la gamba in pratica, quando sei seduto. È difficile, continua a essere difficile da spiegare. Però può diventare un tavolino, capito? Diventa un tavolino volendo. Guarda, addirittura io ho visto una cosa, però sarebbe troppo complicata da fare. Questa parete, come si chiama, allungabile direttamente, cioè tu fai conto una parete di muro, li hai mai visti quegli armadi che poi tiri e escono fuori, si allunga tutta la parete intera, la puoi allungare e accorciare come...